9 in punto, la versione di Oscar. Anche questa mattina, 5 di gennaio, cominciamo giovedì con The End, The Doors. Sapete perché? Fino a che non ci sarà l'inversione di tendenza sulla fiducia che l'Italia dà ai mercati, noi continueremo a usare questo come modesto campanello d'allarme, come diffusione di consapevolezza. Oggi il tema della puntata è uno dei capitoli delle liberalizzazioni su cui il governo Monti ha promesso di prendere una strada decisa, e quello che affrontiamo oggi è il tema collegato alla liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Sapete quali sono le due obiezioni di fondo e vedremo di affrontarle. Ce n'è una, quella di Confcommercio, Confesercenti, che dice la liberalizzazione estrema degli orari nell'arco di una giornata, nell'arco settimanale, non può che colpire i piccoli esercizi familiari, e gli esercizi familiari sono quelli che identificano il segmento del commercio di prossimità. Il commercio di prossimità va difeso per la qualità del tessuto urbano e per la coesione sociale, oltre che naturalmente per gli interessi delle migliaia e migliaia di esercenti che sono quelli già più colpiti dalla crisi in questi anni. Dall'altra parte però c'è una componente di grande distribuzione che pesa poco sul totale della distribuzione e dei consumi italiani e che invece è in grado di fare sinergie sia di costo a voi che comprate a casa, sia sinergie di ottimizzazione ovviamente dei tempi e degli orari, e ovviamente le opinioni sono divergenti. Mi interessa dar voce a tutti oggi e mi interessa capire qual è la vostra opinione come consumatori. Ma c'è anche una seconda obiezione: come sempre siamo in Italia e quindi nel coacervo di competenze concorrenti disegnate dal titolo quinto della Costituzione, sciaguratamente assunto anni fa a maggioranza risicata dalla sinistra contro la destra, poi la destra tentò la riforma della Costituzione, la riforma della Costituzione non passò sul referendum e così via, e ci trasciniamo quindi da 10 anni queste belle concorrenze di competenza che bloccano tutto. Naturalmente anche il commercio ricade in questo, perché la concorrenza è regionale e quindi diverse regioni, a ieri erano 3 ma potrebbero essere 5 o 6 addirittura, imboccano la strada della impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale. Di sicuro la Toscana di centrosinistra, di sicuro il Piemonte guidato dalla Lega, di sicuro la Puglia di centrosinistra, pare che si aggiunga anche il Veneto e un altro paio. Il Lazio sta esaminando, siamo alle solite Calimero, verrebbe da dire. Comunque però questa volta l'ondata di liberalizzazioni vede già molti comuni partire, per così dire. A Milano già in occasione di questi saldi nel fine settimana c'è una modesta giro di apertura degli orari, però a Como è già partito. Ora, prima di presentarvi i vostri ospiti, in apertura dedico un altro minuto e mezzo alla lettura di un testo sul quale oggi ho battuto le mani e anche i piedi, se permettete, dedicato esattamente al tema di come rifare sviluppo nel nostro paese, e del mio amico Luca Ricolfi sulla prima pagina della stampa di oggi, a proposito del fatto che una plumba nuvola di cecità e di conformismo sta lentamente avvolgendo un po' tutto e tutti. Io sono integralmente d'accordo con lui, e dice ovviamente Ricolfi, dato le liberalizzazioni e così via, però in realtà nel dibattito pubblico, se vogliamo davvero crescita, dovremmo dire delle cose spiacevoli. Quali sono? Ecco, inizio a leggere. Il primo dato è che la pressione fiscale sull'economia regolare italiana è la più alta del mondo sviluppato, intorno al 60%, e così il livello di tassazione sulle imprese, il cosiddetto total tax rate, che sta al 68,6%. Queste sono le cifre più scandalosamente elevate nel mondo, ed è questo il macigno che impedisce la crescita per importanza. Numero uno. Questo è un handicap di fondo, scrive Luca, dell'Italia, che è stato ulteriormente aggravato dalle manovre finanziarie di Berlusconi e in misura ancora maggiore da quella di molti. Questo livello abnorme di tassazione si accompagna da sempre a norme vessatorie nei confronti di qualsiasi violazione, anche solo formale o di entità irrisoria, delle regole fiscali, per non parlare dei comportamenti arroganti, intimidatori o semplicemente umilianti degli emissari del fisco, che ovviamente non sono la regola, ma di cui esistono purtroppo innumerevoli testimonianze, talora drammatiche e commoventi. Mi spiace doverlo dire, ma mi sono convinto che oggi in Italia un sentimento di paura verso l'amministrazione pubblica sia ampiamente giustificato, anche quando non si sia commesso alcun errore, reato o violazione. E tutto mi fa pensare che, affamato da decenni di spesa pubblica in deficit, lo Stato stia in questi anni accentuando il suo volto rapace e intimidatorio. Il secondo dato di fondo, e mi avvio a chiudere, è la strabica selettività della repressione dell'evasione, sempre a parole di Luca Ricolfi. Ci sono intere zone del paese in cui quasi tutto è nero, si sa perfettamente dove si annidano gli abusi più clamorosi, compreso il caporalato, varie forme di sfruttamento del lavoro degli immigrati che ricordano i tempi della schiavitù, ma si preferisce chiudere ipocritamente un occhio, concentrando l'azione sulle porzioni del paese in cui l'evasione c'è ma è molto più contenuta. È chiaro che Luca Ricolfi sta parlando del sud, vedete che ha il pudore anche di non citarlo, però questa è l'amara realtà che conosciamo. Vi risparmio il resto, però leggetelo davvero, perché fatti 100 i costi unitari del paese, dei paesi a noi più comparabili, cioè la Germania, la Francia, il Regno Unito, i costi dell'Italia sono 120 per la benzina, 170 per il gasolio, 250 per l'energia elettrica, 300 per i tempi di pagamento della pubblica amministrazione, 400 per il rispetto dei contratti. Ma i due problemi di fondo, oltre alle liberalizzazioni di cui, come sentite, ci occupiamo tutti i giorni, e vi segnalo che l'Espresso in edicola domani mattina, ma oggi lo trovate a Roma e a Milano, l'Espresso dedica l'apertura e un approfondimento alla liberalizzazione dei taxi, mentre Panorama dedica copertina e approfondimenti alla liberalizzazione del mercato del lavoro. Ma al di là di tutto questo, io la penso come il professor Luca Ricolfi sulla Stampa di oggi: il problema numero uno per la crescita italiana è la rapina del fisco di questo paese, e il mantra di cui vi hanno riempito la testa sul fatto che, a proposito di fisco, il vero problema è la lotta all'evasione fiscale, è per me infondato. Il vero scandalo è il peso della rapina pubblica sul totale dell'economia italiana. L'evasione fiscale è un problema serissimo, che io non intendo sottovalutare, che diventerà meno grave quando le aliquote scenderanno e quando il rapinatore Stato metterà meno profondamente i suoi artigli nelle nostre tasche. So che uso un linguaggio provocatorio come quello di Luca Ricolfi, però penso che alla fine, come dice lui, ci stiamo tutti rimbambendo, evitando di farci mostrare dalla politica il problema numero uno, il peso di questo Stato inefficiente. Chiusa di questa, fine di questa apertura, torniamo al problema della liberalizzazione del commercio e presentiamo immediatamente gli ospiti che sono con noi. Allora, in questa prima parte della trasmissione abbiamo il presidente di Federdistribuzione. Federdistribuzione è l'associazione della grande distribuzione, uscita da poco in Confcommercio, anche proprio in ragione delle divergenze di opinioni su il tema di cui parliamo oggi, e il presidente di Federdistribuzione è Giovanni Cobolli Gigli, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Poi abbiamo Roberto Ravazzoni, che insegna economia e gestione delle imprese all'Università di Modena e Reggio Emilia e coordinatore di ricerca presso il CERMES, cioè il Centro di Ricerche sui Mercati e sui Settori Industriali dell'Università Bocconi di Milano. Buongiorno professor Ravazzoni. Buongiorno a lei. E poi abbiamo Fernando Azzilio, che è il presidente dell'ASCOM di Padova. L'ASCOM di Padova in questi giorni ha molto movimentato il dibattito, perché ha detto: state attenti, perché come al solito dietro le semplificazioni e le parole d'ordine si c'erano delle trappole, perché in realtà andiamo a fare seriamente un esame comparato delle condizioni di apertura e dei regimi di regolazione dei diversi grandi paesi al mondo, e troviamo che nella media dell'Europa in realtà addirittura sono aperti già meno dell'Italia di oggi, a cominciare dalla Germania, e quindi state attenti, perché a seguire la moda si incappa in problemi. Grazie a Ferdinando Azzilio. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Possiamo cominciare proprio da Azzilio per vedere un pochino i dati e le esperienze comparate che avete messo insieme, che cosa dimostrano a vostro modo di vedere? Ma dimostrano assolutamente che, come sempre, in Italia si fanno le cose, come dire, un po' si sia le nostre parti alla Carlona, ci si punta su un filone, si è convinti che le liberalizzazioni siano la panacea di tutto e si continua a testa bassa. In altri paesi del mondo non è così, a parte New York, conosciamo bene che città e che metropoli è e che qualità di negozi ci sono, e ci rendiamo conto che nelle altre parti del mondo gli orari sono regolamenti. E credo sia una cosa corretta. E da questo punto di vista lei e Confcommercio in generale, abbiamo scelto l'Ascom di Padova ma è per l'intero, dar voce all'intero sistema Confcommercio, che cosa è convinto che avvenga con questa norma del governo? Confidate nelle opposizioni da parte delle regioni? Avrete un atteggiamento da luogo a luogo, comune a comune, regione a regione, aperto sulla base di diversificazioni territoriali, oppure è una questione di fondo secondo voi su cui le armi dei liberalizzatori verranno puntate? Sì, sì, ma guardi, innanzitutto Confcommercio Nazionale si è espressa chiaramente su questa, è una posizione chiara, contraria. Poi ognuno nel territorio si sta muovendo in base a, come dire, alle idee politiche locali. Vediamo che nel Veneto in modo particolare sia i comuni di centrosinistra sia la regione che è governata dalla Lega e con il PDL hanno, come dire, un'idea comune, quindi contrari. La Isi Coppo, l'assessore al commercio, si è comportato in modo corretto, a mio avviso, ha sentito tutte le parti e addirittura intenzione di fare ricorso, come farà la regione toscana. Perché? Perché la competenza è regionale, quindi quando un governo, e quindi anche qua grande demagogia da parte del governo centrale, prima il grande federalismo mai arrivato, anzi al contrario, ha aumentato le tasse locali e quelle nazionali, sembrava che quello fosse la panacea, poi adesso le liberalizzazioni, quindi liberalizziamo tutti e salviamo tutto, no, non salviamo assolutamente nulla. Oggi rischieremo di vedere negozi, piccoli negozi, medi negozi di centro storico, di periferie, che sono negozi di vicinato, di servizio, che fanno una funzione sociale, irrimediabilmente chiusi. Perché? Perché la forza della grande distribuzione per quanto riguarda il turnover di dipendenti non si può mettere a confronto in confronto di un piccolo negozio, ma questo non vuol dire ancora che noi siamo, come dire, in scontro con la grande distribuzione, sono due realtà che devono convivere. La grande preoccupazione è che tra qualche tempo qualcuno ora dice la grande distribuzione potrà assumere di più, ma è anche vero che poi scatterà la grande concorrenza tra la grande distribuzione e vedremo attività di quel genere chiudere. Le dico che nel Veneto una parte del mondo della GDO è contraria alla liberalizzazione degli orari. Ora, citava la posizione dell'assessore Maria Luisa Coppola, appunto amichevolmente Isi Coppola, l'assessore al commercio del Veneto, le richiamo perché proprio ieri in una intervista al Corriere Veneto l'assessore ha respinto in ordine metodologico innanzitutto la norma contenuta nel decreto Monti, dicendo che le regioni hanno 90 giorni di tempo, cioè fino a marzo, sì, ma solo nel caso in cui non abbiano legiferato, e dice noi proprio per questo in realtà in Veneto abbiamo, da settembre abbiamo le orecchie aperte, quindi abbiamo provveduto con una leggina sull'apertura domenicale, abbiamo inserito un emendamento in commissione, ulteriormente modificato in aula, e quindi noi da questo punto di vista siamo a posto e quindi la norma non ci tocca, punto numero uno. E poi dà un giudizio di merito l'assessore Coppola Veneto e dice per noi, virgolette, le aperture selvagge nel commercio sono un modello forzato e forzoso, non produttivo dal punto di vista economico, il commercio non aumenta il suo potere d'acquisto senza regole. Ora sentiamo invece di fronte a questo il professor Ravazzoni che ci dice, perché sono fioccati molti numeri intorno alle cessazioni di attività nel commercio in questi anni, concentrate soprattutto nel settore degli esercizi più piccoli, dei dettaglianti, dove sono le imprese, sono a forma familiare, e ulteriormente il conto verrebbe presentato a loro, ci dice Confcommercio. Altri invece dicono non è affatto detto però che la liberalizzazione degli orari con un marketing per 24 ore al giorno debba per forza colpire i piccoli esercizi, il problema è avere una mentalità diversa e unirsi anche per fare convenience store. Cosa si può dire, ricerche alla mano e verificando alla mano un pochino le diverse condizioni di produttività offerte dalle diverse taglie di fatturato, dalle diverse tipologie di imprese che ci sono oggi nella rete distributiva commerciale italiana, professore? Ma la mia opinione è che si sta facendo, diciamo, tanto rumore per nulla sulla questione degli orari. Gli orari liberi non stravolgeranno l'assetto del mercato. Per la verità in Italia avevamo già, diciamo, un numero di ore di apertura giorno e un numero di giorni anno molto alto. Il consumatore, anche di fronte alle ricerche ultime che ho seguito anch'io, che si focalizzavano più che altro sulle aperture domenicali, diceva inoltre il 50% degli intervistati che non avrebbe cambiato il giorno, e tenga conto che parlavamo di una situazione in cui il numero di aperture domenicali era contenuto, quindi quando noi avremo la prospettiva di avere un maggior numero di ore e di giorni di apertura, la gente si comporterà in maniera molto razionale. Io non credo che cambierà i propri modelli. Il travaso di vendite che avevamo stimato era di poco superiore al 10%, in più sullo sfondo di un assetto strutturale che ormai vede, diciamo, l'equilibrio di vendite tra il piccolo dettaglio e la grande distribuzione, sia nell'area dei beni alimentari che dei beni non alimentari, ormai assettato da alcuni anni. Quindi questo non è un provvedimento che farà saltare i conti dei piccoli dettaglianti e delle piccole strutture. È chiaro che devono ripensare le loro attività, bisogna pensare a delle associazioni di via più robuste, bisogna pensare a dei consorti di centri storici che propongano e vendano questo superluogo come un centro commerciale naturale, magari cercando di uniformare gli orari, facendo comunicazioni insieme, e dentro le piccole strutture una differenziazione straordinaria dell'offerta. Se il piccolo dettaglio si appiattisce sulla grande distribuzione è perdente, ma non sono gli orari il fattore di spinta. Io vorrei rassicurare da questo punto di vista, il consumatore è molto razionale, bisognerà educarlo, ma non cambierà i propri modelli di acquisto. E liberare tempo comunque alla gente, visto che soldi in più non gliene possiamo dare in busta paga, credo che sia un'area di intervento imprescindibile in questo paese. Liberare tempo e facilitare gli spostamenti quantomeno semplifica la vita delle persone. Ecco, questo anche secondo me è uno degli aspetti prevalenti, il liberare tempo rispetto a chi vedeva obbligatoriamente concentrato solo nel supermercato il sabato o nelle aree urbane in cui sono aperte la domenica ovviamente gli acquisti. Questo è un grande problema delle aree urbane del nostro paese, è un problema rispetto al quale il numero elevato, a dire la verità, di esercizi grandi, cioè di mercati, supermercati voglio dire, e di ipermercati, non ha dato ancora adeguata soluzione. Negli anni ho visto accumulare anche, e lo dico per toccare anche un altro aspetto collegato al problema della distribuzione, c'è un problema legato alle aree destinate a fini commerciali, che sono una componente fondamentale della valorizzazione immobiliare del nostro paese. Noi abbiamo avuto un boom di destinazioni di aree nelle cinture intorno alle grandi città a queste finalità e poi un blocco della realizzazione dei punti con un immobilizzo per evitare che altrimenti impattasse sul prezzo medio delle aree immobiliari destinate a questo fine. È un problema molto serio fuori tutte le grandi città italiane, perché chi non ha saputo governarlo bene con il piano di governo territoriale su questo si è trovato con delle vere e proprie piccole bombe aperte dal punto di vista delle pressioni contrapposte, delle banche che hanno prestato i soldi, degli imprenditori che non sono andati avanti e che si trovano esposti, di chi ha fatto leva finanziario sul valore di aree immobiliari destinate a fini commerciali che poi non sono state utilizzate. È un grande problema di cui si parla poco quando si parla del commercio, ma che in realtà nella mia esperienza è fondamentale. Ora, rispetto a tutto questo poi noi abbiamo un'altra componente, però quella delle scale sinergie di costo, scarse, perdonate, sinergie di costo, compressione di costo date dalla grande distribuzione nel nostro paese, perché chi ha più grande distribuzione come grandi paesi del nord Europa effettivamente offre a chi deve stare attento, no, dobbiamo stare attenti tutti, ma attentissimo ai propri consumi, la possibilità di affrontare non solo l'inflazione al meglio, ma addirittura di risparmiare al netto su convagli di marca molto ampi, con forbici di possibilità molto, molto ampie. Io capisco che viviamo in un paese che è pieno di pregiudizi nei confronti della grande distribuzione, però attenti, perché la grande distribuzione è poi una catena integrata capace anche di proiettare all'estero poi il totale di un'offerta paese. Pensate all'agroalimentare, quello che Auchan e Carrefour sono capaci di fare nel mondo, mentre noi siamo meglio dal punto di vista delle specialità, ma proprio perché non abbiamo grandi catene distributive capaci di fare cose analoghe all'estero, in Cina per cominciare, restiamo indietro. Quindi la grande distribuzione, nessuno dice che deve essere l'unica componente del commercio, ma ha delle componenti di compressione di costi, di proiezione paese, che sono a mio giudizio assolutamente innegabili. E allora sentiamo un pochino attraverso il presidente Coboli Gigli, che è un manager che nella vita ha ricoperto incarichi diversi, è stato un manager editoriale, è stato in RCS Libri, è stato la Mondadori, è stato anche presidente della Juventus, e oggi il mondo della grande distribuzione italiana ha deciso, per così dire, un po' di separare le strade rispetto a Confcommercio e di dire con chiarezza, siccome le logiche sono un po' diverse, noi ci battiamo perché la nostra componente esca, per così dire, da una specie di atmosfera in cui tutti i gatti sono grigi, cioè un gatto bianco, un gatto nero, e quindi di fronte a questo provvedimento l'opinione di Coboli Gigli di Feddistribuzione qual è? Noi siamo favorevoli ovviamente, siamo favorevoli, ma non perché ce lo siamo inventato noi. Questa è una cosa che l'antitrust, noi ci dimentichiamo che esiste un organismo importante come l'antitrust, predica da qualche anno e ha sempre predicato il fatto di dover aumentare gli orari d'apertura in nome della concorrenza. Se ricordiamo quello che è successo nei decreti legge di luglio e di agosto, questo tema era già stato affrontato e poi all'ultimo momento è stato cancellato, comunque ridotto in termini di orari di apertura, libertà di orari di apertura, perché ci sono stati degli interventi di persone, di organizzazioni, di corporazioni potenti. È stato reintrodotto, non l'hanno scritto delle persone che non capiscono, l'ha scritto il segretario alla Presidenza del Consiglio, il dottor Catricalà, che di queste cose ne capisce molto. Ma non solo liberalizzazione dei negozi, bisogna andare avanti con questo discorso di liberalizzazioni, lo dice Concommercio ma lo diciamo anche noi, liberalizzazione dei servizi pubblici locali, degli ordini professionali, dell'energia. Bisogna far cambiare l'Italia, perché sennò, Giannino, questi 60% di tasse che io pago e il 68% di tasse che le aziende che io rappresento pagano comunque, andremo avanti a pagarle, perché se non riduciamo il debito e se non cambiamo l'Italia e se non cambiamo il nostro modo di ragionare, di operare, se non ci rendiamo conto che soltanto innovando tutti i giorni il nostro mestiere possiamo ottenere dei successi per noi, ma in primo luogo per i nostri consumatori, che sono i cittadini italiani, e noi rimaniamo attaccati al palo per quel che riguarda il mondo dei consumi e per quel che riguarda tutta un'altra serie di attività. Allora io credo che noi dobbiamo prendere questo stimolo delle liberalizzazioni, che come ha detto giustamente Ravazzoni non cambiano molto rispetto a quello che è il panorama attuale, dobbiamo prenderlo con ottimismo, dobbiamo sapere che i dettaglianti, che sono una categoria che io rispetto e che trovo essenziale nell'equilibrio del mondo dei consumi in Italia, hanno la possibilità di specializzarsi, come mi pare abbia detto anche il professor Ravazzoni, e ottenere dei risultati con la loro abilità di arricchire le vendite del prodotto con elementi di servizio o di consulenza nelle scelte che la grande distribuzione non potrà mai fare. Dobbiamo sapere che l'Italia deve rimanere un paese dove ci deve essere una presenza forte del dettaglio, ma forte anche della grande distribuzione, perché questo è il primo stimolo alla concorrenza e a mantenere i prezzi più bassi. I paesi dell'Europa che avete citato, dove la grande distribuzione a livello di quote di mercato dell'80-90%, non praticano una concorrenza come in Italia. Da noi, i nostri operatori della grande distribuzione, che hanno dimensioni inferiori, sono costretti per farsi concorrenza tra loro a tenere i prezzi molto bassi, e questo è un vantaggio importante per il consumatore italiano. Noi ragioniamo sempre tenendo conto di quelle che sono le nostre esigenze, ma ci dimentichiamo di quelle che sono le esigenze dei cittadini italiani. Nei nostri negozi ogni settimana entrano 60 milioni di persone, 60 milioni di persone che trovano qualità, che trovano servizio e che devono trovare adesso anche più tempo per poter fare con calma le loro scelte. E noi siamo convinti che allargando gli orari di apertura ai giorni festivi, questo tempo e questa tranquillità verrà data e questo servirà a migliorare la situazione dei consumi. Certo, se questo provvedimento fosse stato preso qualche anno fa, come diceva il professor Ravazzoni nel suo studio, probabilmente si sarebbe aumentato il PIL di 3 o 4 miliardi di euro. Adesso siamo in un momento di grave crisi economica, i soldi nel portafoglio dei nostri consumatori sono inferiori, però sicuramente aumentando gli orari di apertura e avendo voglia di cambiare noi commercianti il nostro stile di offerta, faremo qualche cosa di utile nei confronti dei cittadini italiani. Allora, io ringrazio Frando Zilio e il presidente Cobolligigli. Aggiungo, prima della pubblicità, in questo periodo abbiamo un po' meno pubblicità, quindi ci prendiamo qualche minuto in più, la lettura dei comunicati che sono apparsi sui giornali in questi giorni di Esselunga è la catena storica, Carrer Caprotti, sapete che lotta storica con il sistema Coop, una sentenza in primo grado che ha ritirato addirittura, per me una vera censura, dalle librerie il libro che aveva scritto insieme al mio mio amico Gimillello Alvi, e adesso una sentenza di appello che invece ha ritirato quel provvedimento. Esselunga da sempre pratica turni di apertura anche domenicale dei suoi punti di supermercati nelle grandi città italiane, e così ha commentato con annuncio a pagamento sui giornali questo provvedimento di cui parliamo. Cosa cambia? Ormai non molto, dice il comunicato Esselunga, ma qualcosa. Veniamo da un tempo dove l'apertura era limitata a 8 ore giornaliere, a un massimo di 44 ore settimanali, e questo ha lo scopo di proteggere il piccolo commercio. Poi, con una disposizione successiva dell'87, il ministro Marcora accordava tempi di apertura più liberali, 13 ore giornaliere da attuarsi nella fascia oraria compresa tra le 8 del mattino e le 21 della sera. Ed è così che da anni siamo dunque liberi di praticare questo orario di apertura, mentre solo in qualche negozio della Toscana operiamo dalle 7.30 alle 20.30, abitudini locali. Con la nuova legge, dice Caprotti, per quanto riguarda l'orario della settimana nulla cambierà, diverso sarà per le aperture domenicali e festive. Sebbene anche qui non si tratterà più ormai di una devastante rivoluzione, come tanti dicono. Perché? Perché anche sui festivi, dice Caprotti, una parziale libertà è già in atto. Molti negozi infatti sono aperti circa 20-25 domeniche l'anno, che diventeranno oggi 47-48, mentre i negozi posti in località turistiche già ora sono sempre aperti la domenica. Quello che cambia veramente è che sia chi vuol fare la spesa che noi operatori saremo sgravati dal balletto settimanale di queste aperture a singhiozzo, perché ogni amministrazione comunale decideva magari all'ultimo momento Parma aperto, Bologna no, Seregno chiuso, Monza aperta, ed era una bella confusione, perché per noi operatori significava dover organizzare ogni volta piattaforme logistiche di rifornimento adeguati alla volubilità delle decisioni assunte dalla politica e dall'amministrazione locale. Ora potremo pianificare liberamente e razionalmente tutto il sistema rifornimento, organizzazione del lavoro, eccetera, e i clienti potranno fare la spesa in libertà. Nonché per noi del gruppo Esselunga anche tutti gli annunci stampa settimanali, una volta preso un ritmo all'inglese, ad esempio tutte le domeniche aperte alle 9 alle 19, verranno a cessare. Il commento mi ha colpito, e poi andiamo in pubblicità subito dopo, perché il commento finale di questo comunicato di Esselunga è questo: certamente per diverse migliaia di persone impiegate nelle regioni e nei comuni a gestire il balletto settimanale di cui sopra, assieme agli impiegati delle associazioni, commercianti, ambulanti, eccetera, andrà trovata una nuova, più produttiva occupazione. Meno regole inutili, più semplicità. Come è noto, il collega Caprotti non la manda a dire, parla sempre in maniera tagliente. Allora, molti ascoltatori dicono la grande distribuzione è una falsa risposta. I vecchi mercati regionali non potrebbero essere una soluzione in realtà per il commercio più efficace per della grande distribuzione. Poi c'è un messaggio dell'ascoltatore che dice: dal 1 gennaio lavorerò tutte le domeniche, non avrò più un recupero settimanale. No, certo, avrò un recupero settimanale, ma non potrò più passare una giornata con mio figlio e la mia compagna. Noi della grande distribuzione non abbiamo più diritti, non un weekend, non una gita domenicale con la famiglia. Allora mi chiedo perché non posso fare un bonifico, una visita medica o farmi fare il tagliando alla macchina la domenica. Ciò che chiedete a noi della grande distribuzione dovrebbe valere per tutti i settori della vita economica. Io devo dire che da questo punto di vista sono abbastanza d'accordo, nel senso che io per esempio sono un iperlavoratore e lavoro quasi sempre, però mi rendo conto che in moltissimi settori non è così, e quindi capisco anche chi della grande distribuzione dice: ci chiede molto il lavoro dipendente, ovviamente. Allora iniziamo alcune telefonate e poi avremo dei politici di quelle regioni che impugneranno il provvedimento. Cominciamo con l'opinione di Sebastiano, che ci chiama da Trento. Prego Sebastiano. Sì, buongiorno, ecco. A tutti. Io premetto che sono 20 anni che sono in commercio e quindi di conseguenza sono molto vicino ai commercianti, ma voglio dire che la liberalizzazione degli orari è una cosa buona, ma non tanto perché è applicata in tutta Europa, ma perché liberalizzazione non significa obblighi, significa la facoltà di poter aprire la domenica come di poter tenere chiuso il lunedì, senza bisogno di chiedere l'autorizzazione in comune di fare la domanda. Quindi io reputo che sia una cosa giusta. Lo spauracchio della grande distribuzione non può essere un pericolo, nel senso che la grande distribuzione già adesso fa i suoi orari, le sue aperture domenicali, e dopodiché, se ci dovesse essere la questione delle aperture notturne, ovviamente cos'è che aprirebbe notte fino alle 4, alle 5, se no farebbe proprio l'orario notturno? sicuramente il supermercato, ma non i negozi all'interno del centro commerciale. E anche il supermercato opererebbe con personale ridotto, come succede già per l'Europa, insomma, ecco. Io che ho abitato all'estero, andavo alle 3, alle 4 di mattina al supermercato a prendermi le uova, andavo a prendermi un pezzo di carne, eccetera, eccetera. Quindi non, la grande distribuzione non crea problemi, secondo me. Io sono molto d'accordo con lei e credo che infatti il classico problema della libertà di acquisti notturni e festivi per chi lavora molto, insomma, è un problema che si risolve proprio con la grande distribuzione, e io non credo che abbia un fortissimo impatto. Certo, la grande distribuzione alla fine è una soluzione per quasi tutto, visto che deve ottimizzare i tempi, però io credo che faccia parte da tempo del quadro di esigenze che vanno affrontate. Capisco anche chi poi mi obietta, ma come, in Germania tutti i negozi aprono tutti i pomeriggi, chiudono alle 18, tranne un pomeriggio della settimana che chiudono alle 20, perché questa è la Germania. E capisco anche poi chi mi dice: vabbè, ho capito, ma il commercio sì, e poi perché allora il pubblico impiego no? Quando invece viviamo in un paese in cui i magistrati fanno 3 mesi e mezzo di ferie l'anno. Beh, una buona osservazione anche questa di un ascoltatore che ci dice: dalla mia panetteria posso dire perché non vale perché per gli uffici pubblici quello che state chiedendo? Non ha mica torto, secondo me. Sentiamo allora, abbiamo con noi gli assessori del commercio, fiere, parchi e aree protette della regione Piemonte, William Casoni. La regione Piemonte è una di quelle che, con per bocca del presidente Cota, ha annunciato l'impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale della norma Monti sulla liberalizzazione degli orari del commercio. L'assessore William Casoni, buongiorno. Buongiorno a lei, Giannina. E ne approfitto per presentare anche l'assessore al commercio, turismo e servizi invece della regione Lombardia, Stefano Maullo. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi tutti. Allora, cominciamo da Casoni. La ragione dell'impugnativa è il titolo quinto e quindi la competenza attribuita alle regioni, o anche nel merito, per così dire? Ma guardi, in Piemonte, Giannino, noi abbiamo una situazione per la quale io, per esempio, che abito a Cuneo, abitiamo in una città dove tutte le domeniche è aperto un centro commerciale, ci sono situazioni appunto in tutta la regione in cui la grande distribuzione apre comunque una media di 30 domeniche all'anno. Cioè, si è trovato un equilibrio tra grande e piccola distribuzione, cioè noi purtroppo negli ultimi anni abbiamo registrato una moria di piccoli negozi che, specialmente nei paesi piccoli, sono non solo il negozio dove si compra, ma sono l'attività sociale, dove va l'anziano che non ha l'auto, dove va chi non si può muovere, dove va chi vive nella frazione isolata. E noi abbiamo un territorio con molte vallate e molto dispersivo, diciamo, dal punto di vista naturale. Quindi noi abbiamo registrato negli anni scorsi una moria di questi piccoli negozi proprio nei piccoli paesi, e molti resistono, e noi non vorremmo farli morire tutti e far diventare questi paesi degli zombie, dove si va e dove c'è il centro di grande distribuzione a 20 km, a 25. Anche questa è un'esigenza territoriale importante, quindi anche nel merito noi contestiamo la norma. In Lombardia invece, assessore Maullo, con le cose come andranno? Ma guardi, noi crediamo che non ci sia un'incostituzionalità di fatto, proprio perché il governo ha lavorato sul tema della concorrenza. Crediamo anche che, a differenza di quello che sta apparendo sui giornali, non ci possa essere una difesa tout court di una categoria piuttosto che di un'altra, ma che debba prevalere l'interesse generale. Quindi abbiamo una serie di strumenti che stiamo mettendo in campo, dall'osservatorio del commercio che si riunirà mercoledì, che ha tutte le parti interessate, dai comuni e sindacati, alla grande distribuzione, alle associazioni del commercio, per finire ai consumatori, proprio per trovare un equilibrio di fondo, tenuto conto che noi abbiamo una rete, a differenza delle altre regioni, che è composta da 200 distretti del commercio, che sono circa 800 comuni aggregati, all'interno dei quali c'è già una cabina di regia, dove i sindaci e le associazioni del commercio riescono a trovare la dimensione migliore per quel bacino d'utenza, che possa essere una domenica in più piuttosto che una programmazione di filiera commerciale che deve essere sviluppata sull'arco dell'anno. Quindi probabilmente gli investimenti per decine di milioni di euro che abbiamo sviluppato stanno dando il frutto anche rispetto a questo settore, che tra l'altro, proprio per riprendere quello che diceva il collega, per il piccolo commercio al dettaglio è stato finanziato con progetti di innovazione in maniera assolutamente consistente. Quindi noi vediamo questa liberalizzazione come un'opportunità per offrire una rete distributiva più moderna e per poter garantire il commercio di prossimità, quello specializzato, quello di qualità. Sentiamo ancora qualche ascoltatore. Norbert da Pisa, prego Norbert. Sì, buongiorno. Io vedo che questa liberalizzazione non sia un obbligo, ma una grande opportunità, soprattutto per i negozi piccoli. Perché, per esempio, un parrucchiere, perché non può lavorare da domenica e lunedì e chiudere il mercoledì e il giovedì? O un negozio di vestiti aprire alle 11 e chiudere alle 9? Insomma, ogni negozio si può adeguare agli orari che sono più consoni al suo settore. Io lo trovo una grande opportunità, non vedo questo allarme dei commercianti. Faccio un esempio, che è un esempio non per rispondere a Norbert, ma è uno dei punti che è emerso per chi vive nei grandi contesti urbani italiani. Da una decina d'anni a questa parte è un fatto che vi siano ampie aree dei contesti urbani che sono state progressivamente, non dico occupate perché è un brutto termine, ma hanno visto il moltiplicarsi di esercizi commerciali specializzati in particolari tipi di offerta, che hanno praticato esattamente quello che ci dice Norbert, cioè hanno iniziato a tenere aperto al di fuori di ogni limite. Per esempio i classici esercizi commerciali cinesi, i parrucchieri cinesi e così via. Poi questo è una componente etnica legata all'immigrazione? Sì, perché non riguarda solo la componente cinese, ma riguarda anche quella pakistana o i punti di ristorazione di kebab e così via. Molto spesso questi fenomeni hanno rappresentato problemi per il governo delle qualità urbane. Io non credo che siano problemi da esorcizzare, sono semplicemente questioni da governare, perché bisogna che avvengano nell'integrazione e non nel conflitto. E tuttavia è inutile negare che questi segmenti hanno rappresentato una fortissima pressione nei confronti di segmenti che offrivano servizi nello stesso tipologia di specializzazione commerciale gestiti invece tradizionalmente, perché è inutile dire che poi alla fine un parrucchiere a pochi euro è aperto così tante ore al giorno e così tanti giorni della settimana, alla fine le clienti e i clienti li trova, e questa è una cosa che a me non dispiace per niente, a dirvi la verità. Sentiamo ancora Fabrizio da Novara, prego Fabrizio. Dottor Giannino, buongiorno. Buongiorno. Volevo dirle, io sono favorevole all'apertura più avanzata degli orari dei negozi, sono anch'io un commerciante, ma per me il discorso è che noi vendiamo la qualità, il piccolo, non la quantità. Sì. Quindi dobbiamo cercare fra di noi di collaborare per attirare il cliente, dare un qualcosa, inventarsi un qualcosa, darsi un'iniziativa, ma la grande distribuzione non è un problema, perché la grande distribuzione va alla quantità, ma noi vediamo la qualità, la penso così. E mentre riparte, come è giusto, in questa parte finale di End the Doors, avviso, oggi altra lettura che mi è piaciuta tanto, le idee del Comitato Investitori Esteri di Confindustria passate al governo, le trovate sintetizzate sul Sole 24 Ore, e vi ricordo che se noi continuiamo a perdere attrattività per i capitali internazionali, vista la scarsa leva che possiamo fare sui capitali italiani, noi affondiamo. Vi ricordo che nel 2010 investimenti diretti in Italia 337 miliardi di dollari USA, Germania 674, Regno Unito 1086, metà dei tedeschi, un terzo dei britannici. Inutile dire che anche sotto questo problema il fisco e la rapina di Stato è il problema numero uno. Lo dico perché so che molti di voi oggi cadono nella trappola di Cortina, trappola ordita apposta in maniera che tutti scrivano l'inevitabile e tutti voi battiate le mani al fatto che è sempre colpa del vicino di casa e non dello Stato che ci prende tutto quello che ci prende in cambio di quello che ci dà. D'ora in poi sarò sempre più duro su questi toni. Mi dispiace che molti pensino che io sia un protoleghista, non c'entra niente l'appartenenza politica, no, c'entra il fatto che vi sfugge la gravità del peso che ha la spesa pubblica sul totale del nostro paese, la rapidità con cui è aumentato di 25 punti in 25 anni, che non è uguale a nessun altro paese, e soprattutto la qualità di ciò che noi abbiamo in cambio, che non è la Scandinavia ma è l'inferno, dove nicchie di economia e anche di imprese approfittano di prezzi regolati amministrati da politici e amministrazione pubblica. Questa è l'amara realtà, e tutti quanti pasteggiano sulle nostre tasche, e questo non ce lo possiamo più permettere. Per me questo è lo scandalo numero uno. L'evasione fiscale viene dopo ed è conseguenza della rapina di Stato. Allora, continuerò a ripetervelo. Allora, una telefonata ancora, chiama Armando dalla provincia di Pesaro. Prego Armando. Sì, buongiorno dottor Giannino. Io sono un commerciante, un ristoratore della provincia di Pesaro e sono 52 anni da quando sono nato che gestisco, cioè dai miei genitori ce l'avevano già, quindi è da sempre che ho il locale. Quindi ne ho viste di tutti i tipi, però come questa crisi qui non ho mai visto una cosa del genere. Sì. Quindi però riguardo la chiusura e l'apertura dei negozi, io ho un ristorante un po' fuori centro, insomma, in campagna, nell'entroterra pesarese. Allora, io già è da qualche anno che la sera, all'infuori del venerdì, sabato, domenica, devo chiudere assolutamente perché sono più le spese di apertura che quello che uno prende. Capito? Poi dopo noi abbiamo gli studi di settore e lo sa, più che i consumi ci sono e più, come se uno dice consumo, accendo la luce, tengo il riscaldamento acceso, se c'è 10 persone nel ristorante consumi più che quanto ce n'è 100, no? Il riscaldamento va di più, quindi voglio dire, sono tutte cose assurde, però è così. E quindi secondo me la vera liberalizzazione bisognava farla sulle cose pubbliche, no sui privati, perché tra i privati ci scanniamo tra di noi e basta. Perché sfido chiunque, uno che ha un locale fuori provincia, fuori paese, si apre anche fino all'una, sfido chiunque, se un locale è aperto in centro, è normale che vai prima in quel centro. Ormai. È normale. Su questo comunque, che il diverso contributo alla ripresa della crescita possa venire da un severo accoltellamento dei difetti pubblici piuttosto che l'apertura dei negozi, io sono d'accordo, ma anche il professor Ravazzone ce l'ha detto all'inizio. Milo da Treviso, prego Milo. Buongiorno signor Giannini. Prego. Io provengo da un paesetto, diciamo, meno sviluppato da Italia. Nel mio paese 15 anni che tutti i negozi sono aperti sempre e vedo che gente è molto contenta perché può comprare qualsiasi momento quello che ha bisogno. Vedo anche che molti del mio paese e del paese limitrofi intorno si rivolgono ormai ultimi anni verso Austria, si girano verso Austria, verso Germania, proprio per sti orari che gente da fuori non riesce a capire, deve perdere tempo. Eccetera. Quindi Milo, lei dice è meglio che teniate aperto, perché negli altri paesi è meglio, mi pare di capire. Matteo da Milano invece che dice? Dottor Giannino, buongiorno. Buongiorno. Quello che dico è che io non sono contro la liberalizzazione assolutamente, non so che effettivi vantaggi possa portare, perché il problema non è tenere aperto, tenere chiuso. Sì, si assumerà qualcuno in più nei centri commerciali, ma il problema, come dice lei, è fare in modo che i cittadini abbiano più soldi da spendere in questi negozi sempre più aperti. E quella è una follia. Non si sente più parlare di costi standard, cioè sprechi continuano ad esserci e invece le tasse continuano ad aumentare. Allora, io credo che su questo facciamo, allineiamo, per così dire, un pareri convergenti. Allora, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo, 1 minuto a testa. Professor Ravazzoni, che cosa davvero potrà derivarne, secondo lei, da un esercizio che dovremmo aspettarci non energico, non immediato, di una più flessibilità negli orari? In concreto, rispetto a oggi, come sta messa l'economia italiana, che cosa potrebbe davvero venirne? Ma io credo che da questo punto di vista i cambiamenti che ci possiamo aspettare sono, diciamo, di portata limitata. Ripeto, c'è già un'ampia offerta in termini di ore di accesso per fare i propri acquisti. Io ritengo che di tutti gli aspetti che attengono alle liberalizzazioni che possiamo portare avanti in questo paese, questo sia veramente un provvedimento di completamento, una sorta di liberalizzazione dal basso. Va benissimo, perché diamo maggiori opzioni al consumatore, maggiore libertà di scelte, lui che è il sovrano e deve essere messo nelle condizioni di poter scegliere di andarci il giovedì o la domenica, quindi questo al centro va messo il consumatore con le sue esigenze, però si tratta di una cosa, diciamo, di completamento. Quello che noi adesso ci aspettiamo sono degli interventi robusti nell'area delle public utilities, dei servizi di pubblica utilità locale, dei carburanti, delle assicurazioni. E lì se noi andiamo, basta guardare la dinamica dei prezzi degli ultimi 7-8 anni, il mondo, diciamo, dei beni di largo e generale consumo ha avuto incrementi modesti perché un po' di concorrenza lì c'è già, anzi ce n'è in alcuni casi anche tanta. Invece invece nel mondo delle tariffe, bollette dintorni, noi abbiamo visto degli incrementi 6 volte superiori a quelli del mondo del largo consumo e doppi rispetto all'inflazione media del paese. Insomma, c'è un'area robustissima di protezioni, di mercati protetti, che va riportata a efficienza attraverso l'esposizione al meccanismo competitivo. E sono stati fatti in passato anche dei provvedimenti, diciamo disegnati dei provvedimenti che poi non sono diventati operativi, che basta riprenderli con umiltà e portarli avanti. Insomma, è quello, e non prendiamocela con i taxi, anche quello è un provvedimento, diciamo, non è certo ai primi posti, insomma. Sono d'accordo, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, quindi professor Razzoni, siccome io condivido questo, dico anche che insomma probabilmente più credibilità e quindi un minor deterioramento del canale credito economia reale, perché con quello che ci sta precipitando nella recessione, veniva e verrebbe se questo governo si decidesse a fare quello che il governo precedente anche non ha voluto fare. Non ho mai capito perché un abbattimento fino a 20 punti di PIL di debito pubblico si può fare con il mattone di Stato. Il mattone di Stato, che quindi non incide nella capacità di acquisto, nei redditi disponibili degli italiani, non è la rapina fiscale accresciuta a cui abbiamo assistito nelle 4 manovre 2010-2011, voglio dire. E io non capisco perché non si faccia, non capisco perché non si metta mano alle circa 7.000 società controllate e partecipate a livello locale, di cui abbiamo rivisto ieri i dati, sono per oltre un terzo di loro da più di 3 anni incapaci di produrre un solo utile e hanno perso 500 milioni di euro solo nel 2009, i dati del 2010 naturalmente a fine 2011 ancora non li abbiamo, il socialismo municipale. Perché non mettere mano a questo prima di accrescere la rapina artigliata nelle nostre tasche? Perché lo Stato non è capace in questo, neanche con un governo dei tecnici, di farlo? Io ho criticato molto il governo precedente, gli ascoltatori ancora mi dicono tu hai tre, non mi importa, pensino quello che vogliono, ma ci vuole un governo che abbia la capacità di stare in Europa chiedendo, come giusto, al tavolo tecnico, come sta facendo, che il rientro del debito per un paese come l'Italia sia corretto per il ciclo. Lo stesso deve avvenire secondo me anche per il rientro del deficit anno per anno. Però quello che ancora non si vede è che stiamo qui a litigare con il fumo negli occhi delle cose di Cortina per non farci pensare alla rapina di Stato delle tasse, primo. Secondo, sui taxi, e terzo, sull'apertura degli orari. Io sono favorevole, ma anche di qua non ci sarà chissà quale contributo alla crescita del paese. Io ringrazio gli assessori William Casone del Piemonte, Stefano Mollo della Lombardia, il professor Roberto Razzoni. Siamo in chiusura, appuntamento a domani.